e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, benvenuti Cuore e Denari. Oggi, come vi avevamo preannunciato, è di nuovo in viaggio. Vi trasmettiamo dalla bellissima cornice di Trento, dove si è aperta ieri l'11ª edizione del Festival dell'Economia. Già Radio 24 da ieri è presente con le sue trasmissioni, naturalmente Cuore e Denari non poteva mancare. Un festival dove quest'anno non si fa il processo alla crisi finanziaria, ma si guarda oltre ai luoghi della crescita, che è il tema prescelto per questa appunto nuova edizione. A proposito di luoghi, ci trovate nel consueto studio mobile di Piazza Pasi. Quindi se siete da queste parti venite a salutarci. Noi siamo qua ad aspettarvi. Questa 11ª edizione, come hai anticipato tu Deborah, proprio come tema i luoghi della crescita, l'obiettivo è quello di studiare più a fondo il territorio, affrontando un'area che ho letto è stata riscoperta solo di recente dagli economisti, l'economia dello spazio. E a proposito di spazio, Deborah, qua noi ci sentiamo come due regine, merito della location, perché Trento è una città straordinaria, non a caso è stata ampiamente promossa dal rapporto sulla qualità di vita nelle province italiane del Sole 24 Ore, ma non solo, abbiamo proprio le montagne ad un passo. Sai che cosa ho scoperto? Che la montagna piace agli economisti, perché se non mi sembra, se non sbaglio, il Forum Economico Mondiale si riunisce proprio a Davos, sulle Alpi svizzere, per cui insomma ci deve essere un legame, si vede che l'aria di montagna buona li illumina, fa venire fa loro frizzare, delle grandi un idee. Allora, vado qua vicino, peraltro, a proposito di non è proprio una zona, in realtà non ci sono mai stata, quindi non so. Non ci sei mai stata a Vienna, vale, no? Esatto, no. Ma dove vado? Io non ci vado, ma ieri c'era un sacco di gente, ieri c'erano tutti i signori dell'OPEC, l'organizzazione dei maggiori paesi produttori di petrolio, e poi c'era anche Mario Draghi, che non solo ha fatto la sua riunione, ha coordinato la consueta riunione del direttivo della Banca Centrale Europea, ma ha anche partecipato alle celebrazioni per i 200 anni della Banca Centrale di Austria. E a proposito di questo, volevo raccontarti che ieri è stato protagonista di una bella celebrazione, praticamente, dove lui era ospite, è stato invitato al concerto dei... qua ti voglio... Wiener Philharmoniker, qua mi cacciano se pronuncio in maniera sbagliata questo nome, naturalmente, con archi provenienti dalla collezione della stessa Banca Centrale Austriaca, fra le prime per importanza in Europa, fra cui alcuni Stradivari, Guarneri e Amati. Quindi non solo camminano sulle montagne questi illustri personaggi della finanza mondiale, ma si fanno accompagnare anche dalla buona musica. Tra l'altro, sai, a proposito di musica, ne parleremo, ci sono degli studi condotti dai ricercatori dell'Università dell'Arkansas che hanno dimostrato che i suoni e i vari generi musicali possono addirittura cambiare la percezione del cibo, di cui parleremo proprio nel corso della trasmissione. Bene, allora invece per quello che riguarda il consueto sommario della nostra puntata di oggi, vi segnalo subito che in questa prima parte parleremo di educazione finanziaria. Sapete quanto ci sta a cuore, quanto ci teniamo che i luoghi dell'educazione finanziaria siano i luoghi della nostra quotidianità, le nostre case, le scuole, i posti di lavoro. Poi ci sposteremo in luoghi economici un po' più selvaggi, o che almeno così sembrano, se leggiamo il titolo del libro dell'ospite che ci ha raggiunto questa mattina. Il libro si chiama Bestiario di finanza, viaggio nella savana fra prede e predatori di Franco Becchis, che fra poco salutiamo, mentre nella prima parte vi presenteremo uno spettacolo che viene allestito proprio qui in occasione del Festival dell'Economia di Trento, tutto dedicato alla famiglia. E poi dalla savana torneremo di nuovo a Trento. A proposito, Trento è proprio anche un luogo di crescita culturale e professionale, perché l'università, con i suoi 15.000 studenti, sta diventando sempre più importante. Con il nostro esperto proveremo ad indagare che cosa fanno gli studenti fuori sede, soprattutto che cosa mangiano. C'è una ricerca molto curiosa e noi inviteremo anche gli ascoltatori a raccontarci quando erano fuori sede, se ricevevano il famoso pacco dalla mamma, se avevano delle ricette speciali, o se hanno dei figli che studiano fuori sede, benissimo, che cosa mandano, perché sai che i figli sono pezze core e le mamme anche quando sono grandi si preoccupano, ma mangerà le verdurine? Quindi vi aspettiamo. Benissimo, e andiamo allora subito al primo approfondimento di oggi che vi ho preannunciato poco fa. Per il tema di denari oggi ci occupiamo di uno dei temi indubbiamente più gettonati del momento, l'educazione finanziaria. Sì, perché peraltro, parlando di crescita, abbiamo tante volte argomentato del fatto che bisogna crescere anche da questo punto di vista. Nella nostra preparazione finanziaria dobbiamo avere più padronanza dei concetti economici e delle dinamiche degli strumenti finanziari. Questo è l'impegno che da qualche anno si è assunta appunto la FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, con numerose iniziative sul territorio. E la Fondazione ha portato a Trento una bella iniziativa che è in programma per domani alle 18, quindi siete ancora in tempo per venirla a seguire, uno spettacolo che si intitola Moglie e Buoi e si tiene presso la Casa della SAT. Me la sta segnalando proprio la rappresentante di FEDUF che ci ha raggiunto qui nel nostro studio mobile. Ecco, intanto non sta arrivando in elicottero, è già qui in studio con noi. Come 007 si cala. Esatto, Monica Rivelli, benvenuta e grazie. Buongiorno e grazie per l'invito. Le avevo chiesto peraltro prima, microfoni ancora spenti, qual è il ruolo che ricopre nell'ambito di questa organizzazione, sviluppo delle iniziative. L'ho banalizzata un po' la sua carica, ma tutto sommato è anche questo, fare anche networking. Esattamente, sviluppare nuovi progetti, nuove iniziative, anche di tipo divulgativo e ludico, come appunto lo spettacolo che portiamo qui al Festival dell'Economia. Vi racconteremo tra poco che cosa fa esattamente, non fa spettacoli teatrali, FEDUF fa dell'altro naturalmente, ma per essere sempre più divulgativi sui temi di economia e finanza bisogna fare anche un po' di intrattenimento. Certo, io e Nicoletta lo sappiamo bene. Vero? Perché anche questo bisogna fare, rendere un po' più lieti questi concetti se li vogliamo fare entrare in testa delle persone. E allora faccio adesso la convocazione ai nostri ascoltatori, prendendo a spunto una delle iniziative a margine di questo spettacolo di Mogli e Buoi. Perché, Rivelli, glielo faccio raccontare subito, prima ancora di anticipare il tema dello spettacolo e la dinamica e tutta la trama. Presenterete anche gli spuntini di economia, gli snack di Nicoletta Carbone, praticamente sì. Solo che quelli è meglio non mangiarli. No, però è meglio leggerli. Nutrono però, sono nutrienti. Esatto, adesso li postiamo anche su Facebook con una foto. Rivelli, cosa sono questi spuntini di economia? Che hanno un po' un connotato giapponese, in realtà, ma non è sushi. No, non è sushi, ma hanno la forma appunto di origami che vengono serviti su dei vassoi al pubblico che verrà a vedere lo spettacolo prima dell'inizio della rappresentazione. Ci sono delle citazioni, degli aneddoti, dei dati, delle statistiche su come, diciamo, evolve la famiglia, sull'emigrazione, sulla fertilità delle donne, su quanto invece cala sostanzialmente la propensione a fare figli, ma anche riflessioni su come la lunghezza di vita delle start-up. Quindi ci sono una serie di tematiche che verranno poi riprese all'interno dello spettacolo. Il pubblico prende dal vassoio questo origami, lo apre, gli viene recitato oppure lo può leggere e quindi si delizia e viene, diciamo così, coinvolto già in quello che vedrà successivamente. Allora, anche perché poi quando un concetto magari molto forte viene sintetizzato in un messaggio breve, in realtà probabilmente rimane in testa meglio. E Nicoletta, che è curiosa come la scimmia della giungla di cui parleremo prima, ne ha già aperto uno e adesso ce lo leggi. Giallo, pensa che fortuna. Sì. Cosa c'è scritto? Allora, nel mondo ci sono 1,8 miliardi di giovani, persone tra i 15 e i 30 anni, che hanno in comune due caratteristiche. Sono cresciuti nell'era dei telefonini e di un disastro finanziario mondiale. Forse per questo che amano postare selfie sui social e frequentare università che li proteggono. Come quella di Trento. Assolutamente incredibile. In linea. Allora, 800 24 00 24, chiediamo anche a voi ascoltatori di chiamarci e condividere il vostro spuntino di economia, magari lo snack di metà mattina per così riempire un po' il vuoto di stomaco, ma anche per riempire un po' il vuoto mentale sui concetti finanziari. Dateci la vostra massima di saggezza, di senso pratico, lungimiranza, la citazione di un economista famoso o di economista che avete sempre avuto come punto di riferimento nella vostra famiglia, una frase flash che vi definisca un po' anche dal punto di vista economico-finanziario. Vediamo un po' l'origami, si dice anche praticamente definendolo al singolare, si dice al plurale. L'origami, non lo so, sto facendovi un'interrogazione di giapponese. Sto frequentando un corso accelerato di giapponese. Da ieri. Sentito che sei molto origami. Lanciata. Benissimo. Lo chiamiamo così. Monica Rivelli, andiamo alla ciccia, allo spettacolo di domani. Mogli e buoi. È un detto italiano che noi conosciamo benissimo. Dei paesi spirito, tuoi. Esatto. Che cosa vuole raccontare la vostra iniziativa? Allora, lo spettacolo realizzato appunto dalla nostra fondazione e dall'Associazione Spettacoli di Matematica racconterà la storia di una coppia alle prese con delle scelte di vita, convivenza, matrimonio, figli sì, figli no e lavorative, posto fisso, libera professione oppure start-up. Queste scelte hanno delle conseguenze economiche, ma queste conseguenze sono date dal paese in cui vengono prese le scelte. Così, ad esempio, la nostra coppia, che è mista, è una coppia italo-irlandese, si troverà a scegliere di fare un figlio in Francia, che è un paese che investe il 3% del PIL nelle politiche familiari. Sul finale si raccoglieranno i frutti di queste scelte e così arriverà un estratto conto della banca, dove verranno riportate le rendite degli investimenti, il profitto dell'azienda, il valore degli immobili, ma non solo. L'estratto conto riporterà anche il potenziale della famiglia e dei figli. Ovviamente certo. È un artificio teatrale quello che però abbiamo creato. Però bellissima idea. Infatti, hai visto? E che cosa fa questo potenziale? Aggiunge al valore economico anche il valore umano, culturale, sociale, simbolico e morale della famiglia. Così, se i figli sono bravi a scuola oppure se giocano nella squadra di basket del paese, ci sarà una plusvalenza. Se invece i genitori hanno preso una multa o se il figlio ha rotto due telefonini durante l'anno, ci saranno dei segni negativi. Delle minusvalenze. Esattamente. Brava, adesso ho capito. Esattamente. Qual è il messaggio che noi vogliamo lasciare con questo spettacolo? È che la famiglia è un valore, produce sicuramente valore economico, ma non solo. Appunto, è un valore in termini di capitale umano e i figli potenziano questo valore. Così è vero che magari le giovani coppie sono spaventate dalle spese che si avranno, no? nel fare un figlio, ma è anche vero che questo figlio genera valore, nel senso che fa fare delle scelte più accorte a livello finanziario alla famiglia, li fa impegnare di più sul lavoro, li unisce e quindi li fa diventare quello che qui a Trento chiamano appunto una power couple. Al Festival di Trento sono definite così. Le power couple, cioè sì. Una coppia di potere, anche se non nel senso che magari letterale potrebbe far intendere. Ecco. Esatto, che si compensano e si danno sostegno a vicenda, in questo senso qua, anche economico, certo. Ma non dipendente, nel senso che l'uno non dipende dall'altro. Una coppia cuore denaro. Hai visto? Dai, diciamola com'è. E continua a copiare. C'è un modo molto semplice per definirla. Senta, dottoressa Rivelli, è uno spettacolo peraltro, lo avete definito a geometria variabile perché si modifica in base alle scelte del pubblico, ma prima di raccontarci anche questa dinamica le chiedo perché l'educazione finanziaria oggi si deve fare anche con un po' di intrattenimento? Nella nostra esperienza quello che abbiamo imparato, soprattutto verso gli adulti, è che sono un pubblico diffidente, che non è facile coglierli attraverso un unico canale e che ovviamente vengono magari così a sentire i temi economici e finanziari nel momento del bisogno. Quindi stiamo cercando delle modalità divulgative, appunto come abbiamo detto prima, che li possano che possano suscitare interesse, che li possano agganciare, anche empatia. E il bello è che una volta superato lo scoglio iniziale, ci si appassiona, si capisce che sono elementi presenti nella nostra vita quotidiana e che appunto si devono capire per far funzionare meglio le nostre finanze quotidiane. E certo, come dici tu Deborah, no? Quando uno ti dice ma io di economia che lavoro difficile fai, e Deborah dice ma perché tu non fai la spesa tutti i giorni, non vai al supermercato, non paghi le bollette. Esatto, il mutuo, non leggi l'estratto conto, no, quello no, generalmente quello no. Si lascia chiuso nella credenzina appunto dell'ingresso della propria abitazione. Detto questo, piano piano siamo arrivati alla nostra prima pausa, è tempo di andare a raccontare un po' ai nostri ascoltatori cosa succede anche sulle strade e le autostrade italiane. Poi, dopo che abbiamo presentato lo spettacolo, presenteremo più complessivamente l'attività della Fondazione appunto per l'educazione al risparmio italiano, che è un'organizzazione emanata dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Qua subito comincerò a contestare un po' il lavoro della dottoressa Rivelli e di tutti i suoi colleghi, perché ovviamente c'è anche un po' di sospetto perché la banca deve farsi promotrici di iniziative di carattere di educazione finanziaria. Allora ci racconterà come è nato questo progetto, che obiettivi ha, e poi naturalmente ci addentreremo anche in questo viaggio misterioso, in questa giungla finanziaria. Noi ci stiamo per la verità tutti i giorni, Nicoletta, però abbiamo scoperto trascinato. Che ci sono un sacco di animali, delle bestie feroci, e adesso vi racconteremo anche questo. A tra poco. Cuore e denari. C'è una lotta sotterranea, sconosciuta al grande pubblico, che si consuma ogni giorno nella giungla della finanza. È una lotta continua, silenziosa, combattuta per nascondersi, per nascondere armi e bottino, per occultare le proprie scelte, i propri investimenti, i nomi delle persone coinvolte e le quantità di denaro che si muovono. Sottrarsi alla vista degli altri ha un senso nella giungla della finanza, ma non per lo stesso motivo per cui ci si nasconde nella foresta, quella vera. In finanza non sono le prede che si nascondono, bensì, sorprendentemente, i predatori. E questo era un brano tratto dal libro Bestiario di finanza, Viaggio nella savana, tra prede e predatori. Lo ha scritto Franco Bechis, che salutiamo, benvenuto. Grazie. Benvenuti, grazie. Ci ritroviamo a Trento dopo tanti anni, sì, perché era già stato ospite nel nostro salottino qui del Festival dell'Economia, allestito appositamente da Radio 24, quando ci aveva presentato Economia in pillole. Esatto. Era il 2008, professor, esatto, Bechis. È da un bel po' che ci conosciamo. Poi l'ho abbandonata un po' strada facendo, ma vedi che ogni tanto poi le strade... La ripescata. Esatto. Allora, il professor Bechis ha insegnato economia al Politecnico di Torino, all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, alla St. John International University, ha fatto tantissime altre cose, è direttore scientifico della Fondazione per l'Ambiente della Turin School of Local Regulation, ma soprattutto, oltre ad aver scritto anche tanti libri di divulgazione finanziaria, ha inventato la figura dell'economista di strada. Raccontiamo prima questa esperienza, ancora prima di raccontare... l'ultima fatica letteraria e finanziaria, direi. L'economia di strada è una forma nuova di rappresentazione dei fenomeni economici, che non parte dai libri, dalle formule abbondantissime, di manuali, ma è nell'università, parte... No, abbiamo qualche... Non so se degli ascoltatori lo sentono, abbiamo qualche strappo dalle nostre cuffie, ci stanno annuendo anche delle persone che ci stanno seguendo da fuori. E allora stiamo facendo un cambio di cuffia molto rapido. Bene. Peraltro questo è un episodio cambio che cuffia al Festival d'Economia ci capita sempre. Il cambio buono delle cuffie porta buono, dici? Allora, sì, allora. Infatti guarda quante amici sono venuti a trovarci. Grazie. Ricominciamo da zero. Ricominciamo. Resettiamo sull'economista di strada. Lo dico in un altro modo. Per spiegare l'economia a volte è meglio partire da... dall'osservazione di un mercato dei pesci o dei tombini per la strada o dei fili della luce che non da un testo. Questo vale per il grande pubblico. L'economista di strada, l'economia di strada è un modo per raccontare l'economia osservando e passeggiando. Se io potessi, molte volte la mia aula la porterei in strada e nei mercati, ma tecnicamente, logisticamente non è possibile. Lì si impara molto, se dagli oggetti, dagli animali, dai comportamenti si traggono conclusioni per il comportamento futuro. Lei peraltro è una cosa strana la sua esperienza, perché di base non arriva dal mondo accademico, come dire, economico finanziario. No, io non sono un accademico, sono un economista di strada, ho insegnato in tante università e scuole, però la mia vera passione è quella di spiegare a chi non ha studiato cos'è un hedge fund, cos'è la regolazione e che cos'è la domanda e l'offerta, o perché nei mercati del pesce ci sono cose che assomigliano molto alla finanza di derivati. Ecco, questo è un po'... Ha fatto anche come secondo libro Finanza Happy Hour, per cui gli piace anche vivere ogni tanto, divertirsi. Ma questo lo raccontiamo magari in un'altra domanda, professor Bechis. Andiamo invece a questo viaggio nella savana fra prede e predatori, che è l'ultimo concetto su cui siamo rimasti, appunto sentendo il primo brano tratto dal suo libro. In finanza non sono le prede che si nascondono nella giungla, bensì sorprendentemente i predatori che poi li zacche sono pronti un po' a sorprenderci, e non sempre positivamente. Allora, come le è venuta l'idea di scrivere un libro che associasse i concetti finanziari ad altri concetti di carattere un po' più animalesco? Ma mi è venuto proprio nel 2008, quando presentavo Economia in pillole, che avevo presentato anche qui da voi. Presentavo il libro, c'erano dei dibattiti, le persone intervenivano e invece di parlare del libro parlavano della crisi, iniziava allora. E spesso nelle domande, nelle osservazioni c'erano squali, tigri, lupi, agnelli, buoi, le metafore animali erano molto presenti. Ho poi tenuto una rubrica su Fahrenheit su Radio 3 e avevo cominciato a ragionare sulla finanza e sugli operatori, che sono veramente sconosciuti, perché le persone non sanno se noi chi manovra le dinamiche dei mercati finanziari. Se noi usciamo da questo salotto e fermiamo 100 persone a Trento e gli chiediamo: sai chi è BlackRock? 99, adesso oggi forse incontreremo tanti economisti, ma nella normalità 99 non sanno cos'è. Eppure BlackRock entra nelle vite quotidiane nostre. Certo, è il più grande fondo di investimento. Oppure se chiediamo chi è KKR, un private equity, se chiediamo cos'è un hedge fund, se chiediamo cos'è... Insomma, i nomi, le persone, i comportamenti nella finanza sono molto molto elusivi, e questo mi ha molto affascinato. Elusivi anche se legali, non parlando poi della... della illegalità, della elusività, cioè di chi si nasconde in modo anche criminale, o non parlando dei paradisi fiscali, che sono il modo più aggressivo di nascondimento dei predatori al fisco, alla politica, all'opinione pubblica e alla stampa. Mm-hmm. Per cui Panama Paper è un'operazione di giornalismo da assolutamente da che merita un plauso, perché tutto ciò che fa comparire volti e persone è utile alla divulgazione e al comprendere questi meccanismi. Certo. Adesso andremo a raccontarvi allora qualche associazione di idee fra un concetto finanziario e un animale di questa giungla. Volevo però ritornare per un attimo a Monica Rivelli. Ci siamo soffermati poco fa sugli origami, appunto, gli spuntini economici che la FEDUF presenterà domani a questo spettacolo Moglie e Buoi, ma abbiamo promesso anche ai nostri ascoltatori di raccontare esattamente in che cosa consiste l'attività di questa fondazione per l'educazione finanziaria. È organizzazione nata in seno all'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e qui subito dottoressa Rivelli ci deve spiegare come pensa che in questo momento un soggetto del genere possa essere, non la voglio ovviamente provocare, credo che sia una domanda legittima e che vi siate sentiti fare anche molte volte, che possa essere ritenuta tra virgolette credibile nei confronti delle persone che oggi in molti casi sempre più spesso dalla propria banca si sentono traditi. Perché secondo voi è importante insistere sul fatto che la banca può diventare anche il luogo dell'educazione finanziaria, almeno per i principi e concetti di base? Sì, allora, devo dire che nell'ultimo anno abbiamo notato una grande crescita di richiesta, di domanda, di saperne di più su queste cose. E quindi se da un lato la crisi o comunque finanziaria e le vicende italiane portano sfiducia così nei consumatori, nei cittadini, dall'altro si rendono conto, aiuta a rendersi conto che c'è un gap di conoscenza, che c'è un gap di competenza, che forse non devo solamente affidarmi nelle mie scelte, ma devo saperne un po' di più, devo essere diciamo così, informato allo stesso livello del mio interlocutore quando ci vado a parlare. In questo senso, ad esempio, sia i ragazzi che incontriamo, sia gli adulti, ovviamente dopo la diffidenza iniziale, di cui abbiamo già detto anche prima, capiscono che attraverso un dialogo aperto, trasparente, con gli interlocutori delle banche stesse, perché ai nostri incontri partecipano le banche, partecipano le associazioni dei consumatori, e quindi mettiamo insieme una platea di relatori anche con posizioni distanti, certo, se vogliamo. Ma nel momento del confronto, del dialogo, quando la banca incontra anche al di fuori, no, delle proprie mura i cittadini, questa diffidenza, questa diciamo così, incomprensione si sfuma e si arriva a posizioni più concilianti. E le persone si mettono anche psicologicamente nella fase di essere disposti a recepire delle informazioni. Ovviamente questo è un processo win-win, vincente per entrambi, perché naturalmente le banche stesse sono le prime a non volere degli interlocutori che non sanno quello che stanno comprando, perché ovviamente ciò ha una serie di ricadute successive negative, come abbiamo peraltro visto. Speriamo che questo sia l'auspicio per il futuro, dottoressa Rivelli, perché in realtà abbiamo avuto la sensazione invece, considerando i fatti passati, che qualche volta qualche banca un po' abbia fatto comodo avere interlocutori che non sapessero bene quello che stessero facendo. Non la voglio mettere a disagio, però sa com'è, oggi tocca raccontare di banche risolte, di obbligazioni subordinate, di prodotti di investimento sottoscritti non nella piena consapevolezza. Abbiamo avuto l'idea che l'interlocutore bancario non avesse tanto voglia di spiegare. Sì, ma lì manca proprio la base, l'ABC, la diversificazione, che è veramente, se vuoi investire dei soldi devi saperlo come principio, non puoi non saperlo. Allora, Bekis, peraltro, adesso c'è un continuo scambio qua di cuffie e microfoni. Lei ci crede al mondo bancario che può scrollarsi di dosso questa orribile immagine che si è data di sé negli ultimi anni e quindi può venire fuori da questa giungla che lei descrive nel suo libro? 30 secondi, poi riprendiamo questi temi nella seconda parte della trasmissione. Ma dunque, intanto il mondo bancario non esiste, perché la banca, le banche sono animali completamente differenti. Abbiamo grandi erbivori in cammino che stanno cercando di adeguarsi alle nuove tecnologie, penso alle grandi banche tradizionali, e abbiamo invece piccole banche che hanno fatto i disastri che lei richiamava. Quindi non potrei dare un giudizio sul sistema bancario in generale, ma soltanto su specifiche situazioni. Sì, devo andare al giornale radio, qua si sbracciano tutti, ne parliamo dopo. Il segnale orario vi è offerto da Dinamicissima e amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Cuore e denari. I mercati finanziari assomigliano a un'enorme piazza dove milioni di persone e organizzazioni investono continuamente il loro denaro, raccolgono i frutti o le perdite, si spostano e si scambiano informazioni. In questo enorme mercato ci sono padiglioni coperti e inaccessibili di fianco alle bancarelle scalcagnate e il movimento è continuo. È impossibile descrivere in poche righe tutta la merce offerta e tutte le esigenze di chi compra. Ma c'è un modo per semplificare e comprendere la natura di questo gigantesco caravanserraglio, ovvero porsi la più semplice e la più amara fra le domande possibili. Chi perde quando le cose vanno male? Ed eccoci di nuovo in diretta da Trento, dal Festival dell'Economia, Cuore e Denari qui anche oggi. Abbiamo riproposto un altro brano tratto dal libro di Franco Becchis, Bestiario di Finanza, Viaggio nella Savana fra Prede e Predatori. Professor Becchis, chi perde quando le cose vanno male? Il meno informato, il più ingenuo? Chi è l'attore in assoluto più debole di questo sistema, di questa piazza che lei descrive nel suo libro, di questa giungla? Ma nel libro ho immaginato diverse linee. C'è la prima linea, quelli che prendono le cannonate e sono gli azionisti, quelli che hanno messo il capitale di rischio. Poi ci sono le seconde linee, le terze linee, infine dovrebbero esserci le retrovie, cioè coloro che hanno pagato per guardare e non per rischiare. E le vicende bancarie recenti hanno dimostrato che alcuni che credevano di stare nelle retrovie erano in prima linea, cioè avevano comprato un biglietto per vedere e a un certo punto qualcuno li ha fatti ballare sul palco, Banca Etruria e altre situazioni del genere. In generale però la regolazione tende a proteggere i piccoli risparmiatori, per questo che l'educazione finanziaria è importante, però sopra il milione e i 2 milioni di euro le persone devono sapersi aggiustare. Sono i piccoli con poco titolo di studio che basano la loro vita su un piccolo gruzzolo per loro, per i loro figli, che devono essere protetti. Gli stati moderni un po' lo fanno, degli altri ci possiamo anche preoccupare non troppo, nel senso che quando leggiamo questi titoli bruciati, miliardi in borsa, titoli virtuali che non significano nulla, sono infatti in realtà ce li contestano sempre a noi giornalisti. Posso assicurare fanno che ad ogni convegno a cui partecipo mi danno sempre addosso, perché il Sole 24 Ore è intitolato bruciati miliardi di capitalizzazione di borsa, poi non diamo mai il titolo al contrario quando tutta questa capitalizzazione si ricostituisce, perché non lo scrivete mai? Chiusa parentesi, tutta, anche noi siamo delle bestie, è tutta ricchezza virtuale, non reale, e comunque molta di questa ricchezza sta nelle mani di persone che hanno patrimoni ingenti o comunque patrimoni solidi, sui quali diciamo la preoccupazione sociale non ci deve essere, perché chi ha 50 milioni di euro di risparmi in un se private bank, due, dice lei, ma se anche ne perde 30 non importa, va bene lo stesso. Certo, per lui, non tanto per noi. Senta, continuando nel parallelo che lei ha adottato per questo libro fra bestie e finanza, io ne citerò qualcuno, adesso noi cercheremo di capire quale concetto finanziario o fenomeno ha pensato di associare agli animali della giungla. Proviamo. Per esempio, quando parla di grandi erbivori in cammino. Sono le grandi banche tradizionali, in Italia ne abbiamo due, Unicredit e Intesa San Paolo, per non fare nomi, e ne avevamo una terza purtroppo che per adesso è più che un erbivoro, è un animale morente. Sono erbivori perché pascolano nei territori del piccolo risparmio, si sono tradizionalmente finanziati con le famiglie e con il risparmio che viene dall'economia. In cammino perché è un cammino difficile, perché sono assediati dalle nuove tecnologie, le nuove app che permettono di fare banca online cambiano il loro futuro. Oggi un ventenne non va in banca, non va allo sportello, fa altre cose. E si stanno attrezzando. E probabilmente non ci andrà mai in vita sua, a meno che non gli servirà un mutuo entro 5 anni, ma magari fra 7 anche il mutuo lo sottoscriverà direttamente online. Quindi sono in cammino e devono cambiare praterie, perché altrimenti rischiano di morire, a meno che non si aggreghino. è un futuro molto incerto. Certo. Allora. Se non sono le praterie, potrebbero essere deserti dove incontrare lenti cammelli intraversate. Questi sono le assicurazioni e i fondi pensione. Ma sì, questi sono animali molto particolari che, oltretutto, hanno fatto anche un bel po' di pasticci, perché alcuni di questi cammelli, che sono pacifici, hanno voluto trasformarsi in predatori. AIG era il più grande fondo pensione assicurativo americano, è fallito perché si è messo nei derivati. Ma perché li ho chiamati cammelli? Perché prendono tanta acqua dai risparmiatori, che sono i contributi pensionistici o le polizze, e devono attraversare il deserto, una lunga camminata nel ciclo della vita fino all'età adulta avanzata, quando quest'acqua che è stata accumulata verrà usata per la pensione, per la sicurezza, per l'eredità ai figli. Quindi devono essere animali tranquilli, certo, pieni di risparmio, che fanno lunghe traversate e guardano lontano. Se cominciano a voler fare i predatori, fanno grandi pasticci. Anche per loro ci sono problemi, perché i tassi di interesse bassi, esatto, sono, ecco, un, le rende un la vita molto difficile per gestire i nostri soldi, appunto, accumulati per presso di cammelli. Loro. Ci sono poi gazzelle, passerotti, castori, non voglio dire chi sono, ci sono anche gli squali. A questo lei associa questo animale, questo pesce, a tutti i soggetti legati al credito al consumo. Nel libro si racconta la storia, per esempio, di Roberto, mi ha colpito molto, che è un giovane inserviente di una casa di riposo che, tutto contento del suo lavoro, fa un prestito per comprarsi la moto, pensando di aver fatto l'affare della sua vita, si è tolta questa grande soddisfazione. Poi incontra un suo ex professore, gli racconta che tassi di interesse gli sono stati applicati a questo prestito, e questo professore nella sua mente fa un po' di simulazioni e immagini. Per tutti i soggetti finanziari che fanno credito al consumo a livello globale, piccoli tassi di interesse applicati a piccole rate come quelle che paga Roberto, pensate che guadagni fanno, appunto, piccoli questi. Non tanto, perché esatto, era il 30%, no, nel senso, intendevo piccolo perché come quantità, sì. Esatto. E un origami letto da Nicoletto, oppure qualche messaggio che vuoi fare prima, allora, di andare verso la conclusione di questa parte? Possiamo leggere l'uno e l'altro, perché abbiamo invitato i nostri ascoltatori a mandarci perle di saggezza finanziaria. Esatto. Passiamo al 349-238-6666. Giorgio da Gorizia ci scrive: solidarietà familiare significa uno più uno non fa due ma tre. Un altro ascoltatore ci scrive che ci riporta un detto dei suoi nonni in dialetto veronese: schei fa schei, pioci fa pioci. Pensiamo, denaro fa denaro, pidocchi fan pidocchi. Per cui potremmo. E commento prima del, e leggo un non spuntino finanziario, sì, esaminando, che parla di coppie e dell'importanza dell'investimento dei figli, a cui accennava la nostra ospite, la dottoressa Crivelli. Allora, esaminando la popolazione over 65, se si eliminano i single, che sono circa il 7%, gli uomini coniugati sono l'80% e i vedovi l'11%, mentre, attenzione, le donne coniugate sono il 47%, ma? E le vedove il 43%, una statistica che mostra l'importanza dell'investimento in figli per le donne. E dimostra anche il fatto che le donne vivono più a lungo. Degli uomini, e devono pensare molto a se stesse, perché, appunto, magari in vecchiaia dovranno provvedere da sole a tutte le loro esigenze, e di salute, ma anche di finanza. Dottoressa Rivelli, queste massime veramente nascondono un mondo incredibile, e forse anche nei vostri percorsi con l'attività di FEDUF cercate di trasmettere questo cambiamento anche profondo che sta avvenendo nella nostra società, che implica anche dei cambiamenti della nostra relazione con i soldi. Sì, sì, sì, sicuramente è quello che noi cerchiamo di trasmettere. Non è il nostro obiettivo non è formare degli economisti, né se si parla di ragazzi delle scuole, né se si parla di adulti, ma è trasmettere il valore del denaro, l'importanza della pianificazione, la gestione consapevole di quello che abbiamo, delle nostre risorse, anche perché si fa fatica ad accumularlo, e quindi è importante saperlo gestire bene. Infatti. Tra l'altro, gli spettatori durante lo spettacolo avranno la possibilità di decidere loro come farlo evolvere, perché verranno interrogati di volta in volta e faranno scegliere, diciamo così, alla nostra coppia la convivenza oppure il matrimonio, fare un figlio o non fare un figlio, tenere il lavoro dipendente o aprire una startup. E quindi saranno loro stessi i protagonisti dello spettacolo e vedranno le conseguenze che hanno le scelte. Per chi avesse perso la prima parte della trasmissione, lo spettacolo a cui fa riferimento la dottoressa Rivelli è Mogli e Buoi, insieme a Spuntini di Economia, a cura della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Questa organizzazione è nata qualche tempo fa in seno all'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, di cui abbiamo contestato la missione, perché qualche volta facciamo fatica a credere che in banca si possa fare educazione finanziaria. Io invece poi aggiungo anche che, se si fa con il garbo della dottoressa Rivelli, invece facciamo grandi passi avanti. Draghi. Un'ultima cosa, ci potrebbe fare un bigliettino da visita dell'attività di FEDUF, che ovviamente non è limitata, anzi questa è proprio una cosa eccezionale, a uno spettacolo di questo tipo, ma andate sul territorio, andate nelle scuole e qua a Trento ne premierete anche un bel po'. Esattamente, noi abbiamo tantissime iniziative e programmi rivolte alle scuole proprio per insegnare attraverso un approccio valoriale l'uso del denaro. Recentemente abbiamo lanciato un progetto che si chiama I fuori classe della scuola con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Museo del Risparmio di Torino, e che prevede la premiazione dei giovani talenti italiani, ossia i vincitori delle Olimpiadi, delle competizioni annuali del Ministero. Tra queste c'è anche il concorso Economia, e qui a Trento daremo 7 borse di studio ai primi 7 classificati, borse di studio in denaro e anche la partecipazione al campus dell'educazione finanziaria che si svolgerà a Torino a novembre presso il Museo del Risparmio. Benissimo, grazie alla dottoressa Monica Rivelli della FEDUF, ringrazio anche Franco Becchis per essere stato con noi, autore del libro Bestiario di Finanza, Viaggio nella Savana della Finanza fra Prede e Predatori, edito da Castelvecchi, peraltro un libro che si conclude anche con il concetto del silenzio del grano, in 10 secondi, mi è piaciuto moltissimo. Ma perché gli analisti finanziari parlano un sacco e dicono cose che nessuno capisce, neanche io che ho un mazzo in economia. Allora quando proprio non ne posso più, mi è successo di andare a camminare dietro casa mia dove ci sono i campi di grano e lì c'è solo il silenzio del grano. Mm-hmm. Che invece lei racconta anche in realtà in questo capitolo di come funziona il mercato, dove si contrattano le materie prime, quelle agricole e non agricole, lì c'è ben più rumore. Anche invece, il grano, esatto, non è innocente. No, perché anche un piccolo risparmiatore che pensa di investire in questo mercato, pensando di fare una cosa utile perché investe nel corn e nel grano, in realtà investe su un mercato finanziario che è assolutamente schizofrenico. Assolutamente. E quindi è bene che ne stia lontano. Non esiste, non investe nel grano turco vero e proprio, esatto. Una innocenza nella finanza. Grazie ad entrambi. Grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo. Grazie per il vostro lavoro. Grazie. E vi invitiamo allo spettacolo di domani. Con piacere. Ottimo. Che cosa si fa? Allora, adesso? Dopo gli spuntini finanziari, parliamo anche degli spuntini non solo di chi vive fuori casa, parliamo di universitari fuori sede, giovani che lasciano la propria città, il proprio paese per trasferirsi per ragioni di studio proprio in un luogo di crescita. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida, ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Ricordi la corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia e fichi d'India che crescevano disordinati ai porti dell'estate, tu certo le impazzite, le poche case, ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto, ripensi alle salite in bicicletta per... Allora noi siamo qui al Festival dell'Economia di Trento con una signora che ci è venuta a salutare. La torta vuole l'autografo, un attimo, magnifico. Ha movimentato lo studio, ma quante questo, cose ha portate? Ma è una signora straordinaria. No, vedi? Ma se le persone che ci ascoltano potessero vedere quello che succede qui dentro, allora, non ci crederebbero, però è tutto vero, tutto live. Deborah ci ha portato, ecco, il pacco di cui parleremo, perché sì, gli universitari fuori sede, molti ricevono. Siamo un po' fuori età adesso, ma questa bene, signora forse l'abbiamo fatta. Ne accorta, esatto, qualche tempo fa. Allora, noi vogliamo parlare di universitari, di ragazzi che vanno a studiare fuori, e come mangiano. Sicuramente chissà come sarà il loro frigorifero, forse mezzo vuoto, insomma. È un dato questo del frigorifero che emerge da una recente ricerca condotta dall'Università Cattolica e anche dall'Università degli Studi di Pavia. Oggi è tornato a trovarci il professor Lorenzo Morelli. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi. Preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e direttore dell'Istituto di Microbiologia e Centro Ricerche Biotecnologiche. Professor Morelli, nella vostra ricerca avete preso in esame diversi atteggiamenti e abitudini degli studenti fuori sede. Proprio come a scuola ci sono dei promossi e dei bocciati. Allora, io direi, togliamoci subito le pratiche negative, così poi raccontiamo tutto il buono e il bello che succede agli studenti fuori corso. Ad esempio, stando alla vostra ricerca, il 60% dei ragazzi ricorre al cibo da sporto, kebab, pizza, cinese, insomma altri takeaway, almeno una volta alla settimana. e sono sempre più frequenti gli apericena, perché i ragazzi hanno pochi soldi, vanno, spazzolano tutto, sì, bevono qualche cosa. Quel ragazzo che abbiamo incontrato ieri sera in treno, studente di Trento alla Cattolica di Milano, molto rammaricato del fatto che in questo periodo deve studiare tanto, non può neanche fare un aperitivo, è proprio chiuso in casa, per cui molto carino. Professor Morelli, lei se la ride, ma chissà come li bastoni suoi. Ma adesso noi tra poco parleremo con un altro prof, sì, chiederemo anche a lui. Professore. Ma innanzitutto, al di là degli aspetti negativi e positivi, c'è stata sempre sorpresa, nel senso che questa ricerca è partita da un gruppo, dal comitato scientifico della Fondazione Danone, che io presiedo, perché ci è venuta questa curiosità, e i risultati su 256 studenti, quindi non pochissimi, in città diverse, da Roma, Milano, Pavia, eccetera, hanno dato dei risultati convergenti sul fatto che, ad esempio, la colazione viene saltata. Il pranzo, e questo è straordinario, il 34% degli studenti si porta il pranzo da casa invece che andare in mensa, e la cena, ma la cena è un delirio, la cena è divisa fra pizza e kebab, i sistemi di delivery a casa usatissimi molto più di quanto pensassimo, e gli apericena. Quindi un panorama molto molto variegato, molto strano, sicuramente non tradizionale, ma professor Morelli, adesso Deborah sottolinea, dice subito, non abbiamo più l'età dell'universitario, no? È naturale. Ma quella della terza età, ecco, sì, magari. Un bacio alla signora, grazie, un bacio grande. Allora, professore, però io mi ricordo che agli universitari fuori sede della passata generazione, di qualche anno fa, arrivava il pacco dei genitori, no? Sottoli, il capocollo, il pane, la pasta, eccetera. Allora abbiamo chiesto ai nostri... Io poi ho l'episodio, ecco, abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori di raccontarci che cosa, se erano studenti fuori sede, che cosa mangiavano, che cosa arrivava da casa, o se invece sono ancora quei genitori che preoccupati, perché i figli sono pezzi e core, no? Anche quando sono grandi. Uno pensa sempre, professore, siamo genitori, lo sappiamo, ma avrà abbastanza soldi, ma mangerà schifezze. Se magari quando i ragazzi tornano a casa infilano di nascosto nella loro valigia qualche cosa di, per sostenerli. Professore, il pacco non si usa più? No, il pacco si usa ancora, e come? Nel fare la ricerca abbiamo selezionato 256 studenti che non tornassero a casa per almeno 15 giorni, contando sul fatto che in 15 giorni dovrebbero più o meno esaurire le scorte. Le scorte casalinghe. Ma è stato uno dei criteri di esclusione, nel senso, anche perché, pur essendo fatto prevalentemente in Nord Italia, la maggior parte degli studenti intervistati apparteneva alle regioni Puglia, Sicilia e Campania. Quindi regioni con una tradizione di rifornimenti materni molto solida. Ecco. Le mamme, vede. Giulia, Deborah ci chiama da Firenze. No, mi ha fatto ricordare poi quello che è successo a casa mia, se volete poi lo racconto. Non riguardava me, ma ha riguardato mia sorella, che è andata 6 mesi all'estero, chissà se mi ascolta. Se volete vi racconto come nasce questa strana, anche perché controllando sulla letteratura scientifica non c'è quasi niente. Ed è strano, perché questo è un segmento di popolazione estremamente interessante, perché è vasto e poi è la futura classe dirigente, adesso volendo usare delle frasi un po', però... dicembre del 2014 mio figlio, studente universitario a Bologna, noi viviamo a Piacenza, torna a casa e mi fa: papà, mi sono fatto una insalata di pomodori splendida. Io l'ho guardato negli occhi veramente basito, dico: ma tu lo sai che tuo padre è un laureato in agraria? Sì. Lo sai che i pomodori a dicembre ricoprono sicuramente la pianura padana? Ma cosa ti sei comprato? E da lì nasce un po' il... A proposito di bestiaio, me l'ha frustrato, vedi? Così, insomma, lui tutto contento di questo piattino che aveva fatto con le sue manine. Vabbè. Vedi che i ragazzi ci danno sempre spunti per tenerci vivi e fare dei progetti. Andiamo da Giulia da Firenze. Insomma, Giulia, lei ha una figlia che studia a Londra. Buongiorno. Ecco, non contenta dell'investimento fatto per gli studi universitari, lei vuole rafforzare l'investimento che fa su questa figlia. Esatto. Buongiorno cari, mi sembra di anche se non ci conosciamo, di parlare con delle vecchie amiche in sostanza. E quindi, è così, vero? E quindi esatto, mi piaceva raccontarvi la mia esperienza. Io ho una figlia che vive a Londra, a settembre saranno 4 anni, e a questo punto si è laureata in sostanza, ma continuerà a vivere fuori sede. Io sono una di quelle mamme che spedisce il pacco, confermo quello che dice il pacco esiste ancora. È nata così. Il primo anno Valentina ha alloggiato in un college. Sì, aveva Giulia. Disposizione. Sì? Ma che cosa mette dentro questo pacco ancora Giulia? Qual è l'ultimo pacco che ha preparato? Dunque, quello che non può mancare mai dentro il pacco è l'olio di oliva. Noi siamo toscani, siamo fiorentini. Un farmalimento, brava. Esatto. Poi secondo? È il parmigiano o il grana padano. Terzo? Sicuramente. Sta facendo i nostri gusti. Terzo, il sugo della nonna. Il sugo della nonna. Non quello introvabile a Londra, direi, assolutamente. Sì. E quindi, Professor Morelli, insomma, mi scusi Giulia, la salutiamo, le sue vecchie amiche la salutano, ma speriamo di rincontrarla presto perché abbiamo un audio che non è perfetto. Professor Morelli, allora il pacco di Giulia. Il pacco piace? Di Giulia va benissimo, mi piace molto, è molto italiano e poi fornisce degli elementi basic, no? Perché con l'olio comunque si dovrà condire della verdura, quindi aumenta la quantità di verdura. Il parmigiano è un ottimo condimento per farsi una sana pasta e quindi va bene, però ecco, direi che la nostra indagine, che probabilmente tra l'altro, questo è un po' un'anteprima, sarà estesa in tutta Europa perché gli istituti Danone International l'hanno trovata estremamente interessante, quindi vedremo come si comportano i francesi. Come si confrontano, come mangiano i ragazzi dei vari paesi, ma da che cosa emerge? Qual è il messaggio che possiamo dare anche ai genitori all'ascolto di ragazzi fuori sede, ma anche quelli che stanno, insomma, degli universitari in genere? Ma allora, a parte il pacco che secondo me dovrebbe essere mantenuto, anche perché visto che se saltano le mense, si portano la roba da casa, a naso direi che non se la cucinano, ma usano quella che ha fatto mamma. Ma al di là di quello ci sono alcune cose su cui riflettere, ad esempio c'è una alta percentuale di questi studenti che dice di essere o allergico o intollerante. Poi però quando gli si chiede come hai fatto a stabilirlo, i test non li hanno fatti, si sono autodiagnosticati delle intolleranze. La cosa è un po' pericolosa perché l'uomo comunque dovrebbe essere onnivoro e quindi tagliare a priori, se non c'è una solida ragione clinica, alcuni alimenti lascia molto molto in dubbio, insomma. Certo. Però impoverire la dieta così senza un reale motivo può essere pericoloso, anche perché togli varietà e togli anche sapore. Noi proprio parleremo tra poco della percezione del cibo, quindi ci metteremo a tavola e poi può provocare a lungo andare anche delle carenze nutrizionali che potrebbero essere evitate, sì. Professor Morelli. Certo, assolutamente sì, ma poi ci sono cose curiose, non so se sapete, ma nei famosi take away il kebab e la pizza sono testa a testa, la pizza italiana è stata raggiunta dal kebab e quindi i sapori, i gusti dei nostri ragazzi sono anche un po' cambiati, si sono internazionalizzati, esatto. Si sono aperti. E d'altronde, professore, oggi abbiamo raccolto tanti modi di dire anche, no, sulla saggezza finanziaria e tutto il mondo poi è paese a tavola. Professor Morelli, la ringraziamo per essere stati con noi, adesso noi andiamo a sentire i mercati. Siamo pronti. Complimenti per questa bella ricerca che mette a fuoco, no, un settore della popolazione molto interessante. Noi ci siederemo tra poco a tavola, scopriremo come si gusta, no, questa schiscetta, pacco, quello che noi prepariamo o scegliamo, faremo un viaggio con il nostro esperto, una vera esperienza multisensoriale. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Cuore e Denari. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga. Oh, siete stati studenti fuori sede, ricevevate il pacco, cosa vi mandavano da casa e che cosa state mandando voi ai vostri ragazzi? 800 24 00 24, ne stiamo parlando a Cuore Denari in trasferta, sì, al Festival dell'Economia. Anche quello è un modo di fare, questo è un modo di fare economia, mandare il pacco. Certamente, anche perché tu pensa che indotto che si crea, no? A parte tutto quello che metti dentro, che trasferisci altrove, trasferisci anche la nostra cultura alimentare, anche se in giro già la conoscono molto bene, tutto il meccanismo dei trasporti che si mette in circolazione, perché cresce, ma guarda qua, i luoghi della crescita. I luoghi della crescita. Sono disseminati voilà. Ovunque. Ecco, e nei luoghi della crescita a volte manca la mamma. Esatto. E possiamo dirlo, no? La mancanza della mamma si sente quando si è studenti fuori sede, pochi soldi, poco tempo, tanto appetito perché la fame è grossa e poca esperienza anche ai fornelli. In ogni caso comunque i ragazzi si attrezzano e condividono. Sono andata a sbirciare un sito molto carino, si chiama Le ricette dello studente, che è un punto di incontro tra tutti gli studenti del paese, fuori sede non, ma anche per tutti quelli che cercano nuove idee, ricette veloci o anche conoscere gli eventi legati al food della città. È libero, non richiedono né carta d'identità nel libretto universitario, quindi Deborah potremmo andare anche a vedere qualche ricettina. Spacciandoci per studentesse. Perché parliamo di ricettina? Perché scegliamo la ricetta e poi cerchiamo di assaggiarla per scoprire che non si mangia solo con la bocca, come si potrebbe pensare. D'altronde anche gli adagi ci raccontano che ti mettono un po' sulla buona strada e ci dicono che si mangia prima con gli occhi che con la bocca, ma non solo, perché anche l'olfatto, anche l'udito fanno la loro parte. Allora in questa seconda parte di Cuore Denari, prima di sederci a tavola, scopriamo i meccanismi che regolano la percezione del cibo, perché noi usiamo spesso i sensi in maniera frettolosa, no? Sentiamo tutto troppo e male, guardiamo ma non vediamo, mangiamo ma non gustiamo. Allora magari conoscendo i meccanismi che sono alla base della percezione del cibo, riusciamo a gustare meglio quello che mangiamo e perché no anche mangiare meglio, inteso come qualità, e anche un po' meno come quantità. Ci facciamo accompagnare in questo viaggio dal professor Massimiliano Zampini, che ha fatto un breve viaggio perché arriva dall'Università di Trento, giusto? Buongiorno, è venuto subito Benvenuta. A trovarci. Buongiorno. È professore al Centro Interdipartimentale Mente-Cervello proprio dell'Università di Trento e si occupa con i suoi studi di qualche cosa di molto complesso che però noi sperimentiamo tutti i giorni, professore. Sì, mi occupo di capire come funziona la nostra percezione e come i nostri sensi combinano le varie informazioni che ricevono. Quindi percezione multisensoriale. Tra l'altro, chiacchieravamo col professor Zampini e con Deborah, che anche lei è stato uno studente, non direi non più studente, ma insomma fuori sede, poi è rientrato con un progetto dal nome non tanto felice, il rientro dei cervelli, e quindi anche lei è stato lontano da, sì, da casa sì, sua. Sì, sì. Sì, ho avuto anch'io questa esperienza di... io all'epoca ero postdoc, quindi la mia esperienza era postdottorato, quindi non più studente. Iniziavo, era già grande, iniziavo la mia carriera accademica e l'ho iniziata ad Oxford. E so benissimo come ci si debbano gestire queste questioni legate al cibo, soprattutto perché alcuni elementi di base hanno dei prezzi proibitivi quando certo. siamo all'estero. All'estero, assolutamente. Allora, professore, iniziamo subito, no? A raccontare perché quando noi parliamo di esperienza con il cibo, del nostro rapporto col cibo, possiamo dire che è un'esperienza multisensoriale, perché lavorano tutti i sensi. Assolutamente, assolutamente. A quelli che ha citato lei aggiungerei anche il tatto. Anche il tatto ha una sua importanza. Quando nella bocca inseriamo qualsiasi cosa, qualsiasi cibo, qualsiasi pietanza, ma anche liquidi, bevande, l'acqua gasata, anche i nostri recettori tattili vengono stimolati. Quindi è un'esperienza, è l'esperienza multisensoriale per eccellenza, se vogliamo. Coinvolge tutte le modalità sensoriali. Allora, oltre a raccontarci le vostre ricette di pacco, potete anche dirci qual è il senso che vi guida di più. Ci sono persone che mangiano più con gli occhi che con la bocca, si lasciano in qualche modo condizionare dall'aspetto di un panino, di un bel piatto. Ieri sera a cena è stata la prima cosa che hai detto quando ci hanno portato appunto i nostri piatti, senza strafare peraltro, perché abbiamo fatto una cena molto semplice, però scegliendo il posto giusto, il piatto giusto, in realtà devo dire che ci hanno servito accontentando pienamente tutti i sensi. Andiamo da Roma, da Giovanna? Sì, perché visto che la parata hanno finito. Intanto mangiamo con i nostri ascoltatori. Giovanna, buongiorno, benvenuta. Dove studia Buongiorno. Suo figlio? Studiano entrambi a Milano. sono un maschio e una femmina e io mando i pacchi alimentari. Bene. Ecco, le mammine. Non è che poi a Milano proprio le cose buone di Roma non si trovino, però lei ci vuole mettere quel qualcosina in più, Giovanna? Ora ovviamente cerco di far risparmiare, quindi mando i miei sughi sotto vuoto, mando le mie lasagne, le mie pizze rustiche, il mio gatto di patate, queste sono... Che imperdibile! Ma soprattutto il trasporto, a chi è affidato di tutto ciò, Giovanna? Oddio, io lo do alla posta ed è una cosa simpatica perché cominciano ad odorare e mi chiedono cosa c'è e io dico sempre vestiti, mi guardano, certo, si dica la verità. Pinocchia, grazie poi, Giovanna. Se si sbaglia, se le cresce un gatto di patate via Monterosa a Milano 91, andiamo a ritirare noi alla andiamo a ritirare noi. Professor Zampini, la maggior parte di noi ritiene che il sapore dei cibi, delle bevande, venga percepito in bocca, no? Che è l'organo in cui ha sede il senso del gusto. E a scuola ci hanno insegnato che sulla lingua ci sono le papille gustative, sono distribuite in zone in modo tale che, tac, le papilline prendono, no? I quattro sapori primari. In realtà tutto questo, io ci ho imparato una vita, allora davanti dove era il dolce, davanti il laterale, eccetera. Invece, quando finalmente l'ho imparato, scopro che... Non è vero niente. No, allora la storia che ci hanno raccontato, che si trova ancora su alcuni libri, è che il dolce lo si percepisce nella parte anteriore della lingua, nella parte posteriore il salato e nelle parti laterali acido e amaro. In realtà questo nasce da un fraintendimento. I primi studi che hanno indagato la fisiologia del funzionamento della lingua e dei gusti hanno notato che c'era una, se vuole, una preponderanza. La parte anteriore sente più il dolce, è più sensibile al dolce, ma non è che la parte posteriore non senta il dolce, le altre parti della lingua non siano sprovviste di recettori per il dolce, per fare un esempio. Solo che in una prima descrizione, in una prima immagine, risultava dolce nella parte anteriore, salato nella parte posteriore. In realtà Henning, che era il fisiologo che ha condotto questi studi, voleva solo indicare che, se vuole, la parte prediletta per il dolce la parte anteriore, ma non è l'unica parte. Certo, le papilline lavorano sempre. Lavorano sempre. Catturano lì e mescolano, si danno da fare. Assolutamente, è difficile. Poi lo possiamo provare noi quotidianamente, se assaggiamo un dolce, non ci sembra che sia solo sulla punta, lo sentiamo all'interno della nostra bocca. Il gusto rotondo, come direbbe un sommelier. Brava. A proposito, mi hai dato un assist. Brava, sì. Con tutte quelle assist. Professore, ci sono delle persone che sembrano dotate di un talento particolare. Deborah ha citato i sommelier, i degustatori di olio. Allora, sono talentuosi, sono i geni, si sono allenati, da che cosa dipende? Sono fortunati? Possiamo, tutti in teoria potrebbero farlo, basta che? Allora, sul fatto che abbiano delle doti particolari non è ancora così chiaro, nel senso che, per esempio, siamo partiti dal gusto. Sul gusto sappiamo che ci sono persone che hanno un numero di recettori differente nella popolazione. Vengono chiamati super gustatori, gustatori oppure non gustatori, cioè la popolazione si può dividere in queste tre categorie e questa è per la sensibilità all'amaro. Abbiamo sensibilità diverse all'amaro a seconda di questi recettori. Per quello che riguarda i sommelier, l'aspetto può essere un po' più complesso, perché entriamo appunto nell'ambito dell'esperienza, della percezione del sapore come esperienza multisensoriale. La percezione del sapore non è solo gusto sulla lingua, ma è anche olfatto. E allora il sommelier ha un olfatto, un naso particolare nel riconoscere particolari odori. In realtà parte di questo può essere legato anche all'apprendimento, il fatto di allenare il proprio naso. Lo possiamo fare anche noi volendo. E come lo si può fare? Banalmente... ci dai i compiti, perché vedi, poi alla fine i professori ma danno tu, guarda, i compiti. Arriva qua subito. Forse è anche un modo per capire. Certo. No, assolutamente. Ma per aiutare anche gli radioascoltatori a fare capire quanto l'allenamento possa migliorare le nostre capacità olfattive. Quindi sentire delle spezie, per esempio, ad occhi chiusi, senza sapere ovviamente dove sono collocate in barattolini queste spezie. Quindi a che spezia corrisponde a quel barattolino, si inizia ad allenare il naso singolarmente e quindi si sentono queste spezie singolarmente. Dopodiché però sappiamo che nella nostra realtà gli odori non sono singoli, non, nel vino non c'è una singola spezia, un singolo aroma di frutta che viene percepito, ma sono mescolati. Per cui conoscendoli singolarmente... Diciamo che il primo stadio è li distingo singolarmente, poi li mescolo. Cominciano a mescolarli a due e poi ne aggiungo un altro e poi un altro ancora, finché la situazione diventa sempre più complessa. Quindi è anche questione di esercizio anche in questo campo, anche in questa materia, incredibile. E quindi abbiamo aggiunto quindi al gusto l'olfatto, che ha un ruolo fondamentale, proprio e profondamente anche legato al gusto. E questo tra l'altro lo rivela anche il linguaggio, perché se ci chiedono, no? Come descrivi l'odore di banano, di panna? Tu diresti dolce, no? Le parole che descrivono gli odori sono spesso legate al gusto. Proprio, e sembra che questo, no? Dimostra ancora una volta che i due sistemi vanno a braccetto. E poi l'olfatto, abbiamo dedicato delle puntate intere a questo senso, che tra l'altro ha giocato un ruolo fondamentale nella sopravvivenza della specie. Quanto vi fate guidare nelle vostre scelte alimentari, non solo, dal naso? Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e ritorniamo poi insieme. Cuore e denari. Eccoci qua di nuovo insieme in diretta da Piazza Pasi a Trento. Siamo al Festival dell'Economia. Se volete venire a trovarci, siamo qui fino alle 12, ma poi i programmi di Radio 24 continuano. Vanno avanti, sì. Con il nostro ospite, il professor Zampini. Abbiamo parlato di olfatto, ho sentito un profumo intenso, non so, magari è un... Era la torta della signora. Stiamo facendo un'esperienza multisensoriale. Allora, abbiamo iniziato a capire perché un po' le nostre papille gustative non sono così... divise, cioè riescono a catturare tutti i sapori primari. Abbiamo sottolineato il ruolo fondamentale dell'olfatto, ma continuano a scriverci i nostri ascoltatori per raccontarci del pacco, che anche quella è un'esperienza multisensoriale a cui si aggiunge, no, anche un po' di cuore, di emozione quando apri il pacco che ti arriva da casa. Hai tante attese che spesso che non vengono mai disattese. Andiamo. No, infatti. Sì, ma Sandro in realtà ha ideato un pacco un sofisticato, direi. Sandro, benvenuto. Sì, buona giornata a tutti. Buona giornata. Sì, allora, Sandro, dov'è intanto suo figlio? Mia figlia è a Budapest. Oramai sono 2 anni che è lì. Mediamente, dopo un mese e mezzo, vado a trovarla con un programma ben definito di 4 giorni. Il primo giorno pulizia e riordino. Secondo, riempiamo il frigo, recuciniamo. Il terzo giorno risistemiamo le cose. Il quarto giorno torno. Bene, perché finito. Altrimenti ho fastidio. Ah no, pensavo sfinito. Senta, Sandro, le porte di casa mia sono sempre anche aperte. Anche le mie. Cosa? Quando vuole? Sandro, quando vuole venire a casa nostra, Sandro, anche 2 giorni solo. Esatto, perché... io le bypasso la pulizia e andiamo subito dritti al sodo dalla cucina. Tenga presente però che io sono bergamasco e vivo a Milano, quindi piatti quindi anche comodo. Vicino, guardi un po'. Senta, Sandro, lei si fa guidare, da quale senso si fa guidare quando si siede a tavola? Mangia di più con gli occhi, con la bocca, con il naso, con il tatto, con l'udito, perché anche l'udito... Vado molto sul gusto. Molto sul gusto. Sì. Grazie, Sandro. Prego. Quando parte per i suoi 4 giorni? La prossima settimana. Allora si prepari, mi raccomando. Grazie, Sandro. Allora, professore, vede? A lei non veniva nessuno, mamma non veniva quando era a Oxford a fare i 4 giorni. Vede? A farle pure la lavatrice, ma l'ha cresciuto così, maschio. Senta, professore, a proposito di questo olfatto, no, che ci guida. Noi in realtà potrebbe lei in un capitolo di un suo libro di cui mi deve la percezione multisensoriale che ho scritto assieme a altri 2 colleghi, Nicola Bruno e Francesco Pavani, che vogliamo leggere. Fa fare anche proprio un esperimento. Io ero ferma quando parlavo col professor Zampini, dico vabbè, in effetti anche il naso capivo, perché quando abbiamo il raffreddore sentiamo tutti i gusti, un po' i sapori, alterati, gusti, sì. Adesso qua poi le parole sono diverse, ma io le uso male, ma tutte insieme come sinonimi. Ma lei mi ha invece suggerito una cosa molto più strong, che ci fa capire esattamente quanto l'olfatto abbia un peso nella percezione che abbiamo del nostro cibo. La prova che l'olfatto ha un ruolo preponderante la si può avere al di là del raffreddore, ma non lo auguriamo nessuno, no, dei radioascoltatori, può essere semplicemente tapparsi il naso quando si assaggia una qualsiasi pietanza, può essere anche una caramella. Si assaggia una caramella ad occhi chiusi, chiediamo ad un nostro amico di darci delle caramelle, per esempio. Assaggiamo questa caramella e sfido chiunque a riconoscere il sapore di quella caramella, l'aroma, qual è l'aroma di quella caramella. Un succo di frutta, per esempio, succhi di frutta ad aromi diversi, con il naso tappato non si riesce a riconoscere l'aroma. Si riesce a riconoscere la dolcezza, se c'è un filino di acidità, per esempio. Al di là di quello, che è il gusto, non si riesce a riconoscere l'aroma. Il signore che ha telefonato. Vedi com'è stato gentile, così ci ha dato la definizione senza dire, ma Nicoletta non le usi così male queste parole. Dell'aroma. Il signore che ha chiamato prima ha detto di affidarsi soprattutto al gusto. In realtà c'è un equivoco terminologico. Noi quando parliamo di gusto del cibo ci riferiamo in realtà al sapore. È il sapore che è un'esperienza olfattiva e gustativa. Il gusto di per sé è un'esperienza molto più, se volete, povera. Riesco a percepire la dolcezza, il salato, l'amaro, l'acido, e poi c'è anche un quinto sapore che è l'umami. Non so se ne avete mai sentito parlare. Sì, anche questo giapponese. È una parola giapponese. Sì, ma ti dico che ormai il giapponese lo so, professore, vada con l'umami. Ma dicevo, l'umami è stato scoperto relativamente di recente, è una scoperta relativamente recente, quella dell'umami. Abbiamo dei recettori anche per questo aminoacido, che è il glutamato monosodico, che è presente soprattutto in ricette giapponesi. Ma lo abbiamo sviluppato questo senso perché comunque ci abituiamo sempre di più a quei gusti orientali. No, l'hanno scoperto prima. Lo si trova anche nella carne, nel pomodoro e nel parmigiano reggiano, per esempio. Vedi che il mondo globalizzato quante cose combina. Noi siamo già organizzati, esatto. Ma posso chiedere, professor Zampini, ma lei, per avere la padronanza di questo argomento, quanti test alimentari fa sulla sua persona? Lei è un assaggiatore professionale? Lui è un po' più un cervellologo, possiamo dire. Sì, certo, dire. Ovviamente, però magari anche per avere una padronanza completa dell'argomento. Diciamo che cerco di testare su me stesso, ma cerco anche di farmi, in parte influenzare la mia esperienza soggettiva, ma in parte cerco di andare a leggere cosa c'è in letteratura, cosa è stato fatto scientificamente parlando, perché proprio il mio modo di operare è quello di condurre esperimenti scientifici. Quindi cerco di lasciarmi guidare dall'intuizione, ma fino a un certo punto, perché l'intuizione a volte può, come dire, ingannare, il senso comune può ingannare. Cerco di capire anche cosa la letteratura, come funziona la fisiologia, e metterla in relazione. Però quanto la condizionano tutti i suoi studi nella vita reale? Cioè, io non lo inviterò mai a cena al professor Zampini, usare il tuo spezzatino. Innanzitutto sento un po' di umami, com'è che si chiama? Umami. Mi ha fatto scoprire che l'olfatto non funziona solo attraverso le narici, ma abbiamo una via retronasale. All'interno della cavità orale, in fondo alla cavità orale, c'è una fessura che permette agli odori di raggiungere il nostro naso. Quindi quando noi abbiamo del cibo in bocca e mangiamo in maniera educata, quindi con la bocca chiusa, non dovremmo sentire l'odore, lo sentiamo comunque. Perché? Perché abbiamo una via retronasale che porta. Speriamo così un po' dalle orecchie. È la galleria segreta. Allora, abbiamo 3 minuti di tempo, pochi, ma vogliamo anche dare, descrivere anche il ruolo della vista. Si mangia prima con gli occhi che con la bocca, e anche lei mi ha detto anche dell'udito quando facciamo crack con la mela, no? La vista la fragranza è fondamentale, colore ci condiziona molto. È fondamentale. Degli esperti, studenti enologi dell'Università di Bordeaux sono stati. È carina. Gli è stato fatto assaggiare del vino rosso e del vino bianco. Gli è stato chiesto di descrivere i due vini. Hanno usato degli aggettivi per descrivere il vino rosso e il vino bianco. Poi gli è stato ripresentato il vino bianco o nel colore naturale, diciamo, oppure colorato artificialmente. Appariva rosso. Questi, quando l'hanno assaggiato, pensavano che il vino bianco colorato di rosso fosse rosso. Questo per dire l'impatto del colore. Sono stati condizionati. Il colore ha un impatto. Però che figuraccia, diciamola un po', scusi. Diciamo che in quel caso sono stati anche, se volete, un po' condizionati, perché prima gli è stato fatto assaggiare un vino rosso, un vino bianco. Però in molte situazioni... Insomma, gli avete cambiato le carte in tavola e anche loro hanno perso un po' la testa. Questi scienziati. Mentre in un, l'ultimo minuto di... No, possiamo... Ah, Marco mi dice due. Te ne ha regalato uno, qua proprio oggi si sciambola. E un altro esempio è quello di una cena che questo esperto di marketing ha invitato delle persone a cena e con una l'illuminazione non permetteva di vedere i colori. Queste persone hanno cominciato a mangiarsi una bistecca, delle patatine, dei piselli. A un certo punto è ritornata la luce naturale, diciamo, e si sono accorti che la bistecca era blu, le patatine erano rosse, i piselli erano verdi. Sono svenuti tutti. Erano gialli. Erano gialli. E a quel punto si sono sentiti male. Si sono sentiti male perché è quello che avevano gustato fino a quel momento, per dire l'importanza. Pazzesco. Invece per l'udito, l'aspetto dell'udito ha, come dire, influenza la nostra percezione del cibo, sia quando mangiamo, quando mastichiamo un cibo croccante, il suono prodotto può influenzare la nostra valutazione. Noi abbiamo condotto un esperimento usando delle patatine, e queste patatine erano croccanti, le facevamo mordere di fronte a un microfono e... di volta in volta le persone potevano sentire il suono che effettivamente è reale oppure un suono alterato, amplificato. A quel punto le persone, quando sentivano il suono più alto, dicevano che era più croccante. Ma guarda, vedi. E non solo il suono che produciamo finché mangiamo, ma anche il suono ambientale. Cioè quando c'è questa ricerca di cui non abbiamo modo di parlare, ma di cui parleremo perché la chiamiamo da Milano, per cui sembra che la musica condizioni anche la percezione. Ad esempio il jazz va molto bene col cioccolato, te lo dico, perché te sono esperta dell'argomento, esatto, ecco, tu so di jazz, e posso di cioccolato. Confermarlo che è vero, però posso dire l'ultimo messaggio che se vuole un paio di cavie noi siamo pronte ad andare ad annusare un po' di cibo, a mangiare anche una bistecchina blu se è buona, di cui si è cucinata bene, noi siamo pronte a metterci sotto esperimento. Grazie al professor Zampini per essere stato con noi, ci sentiremo grazie presto. A grazie a voi. Benissimo, noi ahimè dobbiamo tornare a casa, no, io rimango ancora un po' perché faccio tutte le borse oggi pomeriggio da però qua. Però lunedì alle 10.30 siamo di nuovo in linea con voi. Sì, si sbracciano tutti, buona giornata a tutti, arrivederci.